16-6? No, Fabio, no. No. Claudio nemmeno. Come faremo a fare l'amore, Ryan? No. Ok, non lo so. Chissà, in certe sere pieno. A stasera non c'è manco un cane, vai a cercare. Bu-ba-bu. Barabu. CQ 27, CQ, uno, ma con in ascolto c'è, open. Non c'è nessuno in ascolto. Dopo, c'è qualcuno in questo canile? Riccardino, ci sei o no? Riccardino non mi dice vero. Riccardino, ci sei o no? Almeno tu c'eri qualche sera, stasera non c'è nessuno. Bam. Chi c'è? Avanti. Ma ci sei qualcuno in questo canile? E qualcuno c'è appunto. Io già il canile e io sono abbagliato. Chi sei? Allora questa, ciao Bracco. Non ho capito chi sei, no? Fabio Master. Ma Fabio, ma stasera ti sentivo meglio, porca miseria. Adesso c'è una voce un po' strana, come mai? Dipende dalla batteria di microfono ancora. Stai uscendo gracidando, non so come spiegartelo, dai. Adesso mi ascolto e cerco di rimediare, eh? Oh. Tiri e tiri qua. Così no. Così qua si rimane. Questo è lì. Sto il microfono, no. Come mi senti adesso? È sempre uguale, insomma, già ti capisco, ma non è che sia, la mia radio non è tanto buono, eh. Non ti piace la mia radio, che ho studiato su una radio bella, magari il segnale è basso, ma una radio bella, Ma no, il segnale non è basso, cosa stai dicendo? Ma sei Fabio o no? Cappa che sono io, parliamo anche, già che mi conosci. Se ti dico c'è la voce diversa l'altra sera per quello, no? Ascolti, io c'ho quel materiale da farti vedere, mannaggia, io domani però devo andare a Torralba. Domani almeno che non ti fai vedere domani mattina presto. No, vabbè, tu domani vai a Torralba. Oh. Io non so cosa significa. Lo so cosa significa. Nel microfono non ho capito cosa. E poi domani va a Torralba, poi quando mi conosci abbiamo l'accordo, tornate di là. Se mattina non puoi venire, domani non ti rapresto. Mattina presto c'è un appuntamento, uno particolare. Vabbè, allora vediamo domani sera se rientro presto, sempre che rientro, perché a dire la verità devo andare, è morto mio cognato, quindi non so se rientro domani sera. Vabbè, eventualmente ti avviso, dai. Il problema è che non è che manco il tuo numero di bassa quello, purtroppo. Vabbè, sì. Basta, statemi via. calcio un po' più tensione, sta guadagnando di più, probabilmente c'è più rientri, mentre più giocatore di campo mi dice che sto ad opzionare a palla sicuramente, perché c'è più giocatore a manetta, cioè all'80%, 85%, di due in questa stanza. Ciò vuol dire che il microfono sta pescando la mia testa, finito. Lo so, comunque come segnale si è abbastanza forte, non è cambia nulla, no? Ma come solitamente in quelle sere a quest'ora c'era parecchia gente, stasera non c'è nessuno, chissà perché, boh. Vediamo che c'è qualcuno, perché devo dire anche qualcosa a Roberto, non l'ho sentito però. Tutti di qualcuno che sta ascoltando, magari ha le mani impegnate, adesso io avevo le mani impegnate, prima di rispondersi mi ha chiamato, però non potevo arrivare al microfono, capito? Se stanno ascoltando, magari stanno facendo qualcosa, Adesso a un certo punto guru vengono fuori, tipo Claudio che sta sempre ascoltando su 10, è una decina di poco, Roberto, anche tu, una decina di poco, magari cammino impegnato poi entra, lascia qualche orecchio in giro per oggi. Ma tu ce l'hai a parecchi 144? Ma a parecchi 144 no, non dovrei averne. Vabbè, io non ero antico di quelle cose, cerco sempre di mantenermi sull'omologato. Il massimo che potete trovare che non va bene è un omologato di vecchio stampo che non c'è mai piacere. Insomma, tanto per fare una prova mi interessava, capito? Per in ricezione, ti stavo dicendo di trasmettere, intendiamoci, te lo so non puoi trasmettere, e quindi non ce n'hai. E volevo dire una cosa, ma diciamo, ma nemmeno un apparecchio di HF c'hai, che avevi provato qua, se mi ricevevi almeno in HF, cioè sui 40 metri. Allora possiamo fare così, se tu mi dai la frequenza io la imposto su un pingut e ti ricevo, non so come mi accorderò sull'antenna, perché ho messo un'antenna che posso spostare dai 3 ai 29, perciò non di voi, ma siccome siamo vicini sicuramente ti pesco, magari attacco l'accordatore e a culo mi accordo l'antenna. Allora la frequenza è 7 mega 196.1. 7 mega, allora 0 0 0 7 190, a quanto mi ricordo 6.1. Premo enter e vediamo cosa accade. 795, via. L'hai accordato? Per un attimo mi consegnare di vicino. Ho capito. Per un attimo mi consegnare di vicino, però il volume è basso. No, non so. Un attimo, si prova da lì. Quando sei pronto, che io devo commutare l'antenna sui 40 metri. Io però sono fisso a 790, mi sposto lì, 7 mega, 196.1. No, infatti, 795, il punto 1 non lo tiene di passo, non so come modificarlo in questo ricevitore, perché ho 5 kHz che passano, 7.195, ci arrivi. Allora, attenzione, adesso io provo, provo a passare a commutare l'antenna, diciamo, sui 796.1, adesso sull'apparecchio CB è probabile che non mi sentirai. Bracco, tu fai 795. Oh, noi. Che copiato fa? Allora, hai preso un tipo, poi ti ho detto, ci puoi andare a 795 metri, che i parti di questo ricevitore non me lo fanno fare, 96.1. Non ho capito. Vuoi andare a 7.195.0? 95.1, vediamo. No, punto 0 c'ho io, vabbè, siamo vicini. Vabbè, vediamo punto 0, 195.0, aspetta. Ok, in FM. Sì, adesso lo farei in 7 mega 195.0, però devo commutare l'antenna per vedere se mi copri. Tappa. Allora, mi hai copiato? Ho sentito qualcosa, però c'è un problema, perché sotto più avanti, cioè sotto 205, c'è qualcosa di forte? No, attenzione, perché dovrei riuscirmi bene, perché io, diciamo, con quello sono riuscito a parlare addirittura con Petra in Giordania, e ieri sera ho fatto dei collegamenti anche con l'Alfitalia, anche se non c'è l'antenna adatta, diciamo, c'ho la mantova accordata con l'MT3000, quindi ho eliminato tutte le stazionarie. E allora il tuo apparecchio non funziona bene se mi dici che non riceve? Allora, aspetta che... Ti sento graffiante con un segnale altalenante più o meno a metà della banda, in FM stretta, comunque modulazione c'hai, in AM e FM. Attenzione, era in LSB. Negativo, questo ricevitore ha, infatti lo vedevo altalenante il segnale, questo ricevitore c'ha AM, FM stretta, FM larga e poi ha un sistema di modulazione su cifre per il video. L'LSB ce l'hai o no? No, su questo no, su questo che non c'è. Allora proviamo in AM, se vuoi, dopo ti dico, proviamo in AM? Sì, in AM dovete arrivare subito, 7.195.0. Appunto, ripasso su quella, attenzione, in AM, attenzione. Capa, l'ho già messo in AM. Com'è andata? Ottimo, mi sono anche portato un'antenna su quella frequenza e mi arrivi così nella palla. La palla proprio, cioè, il massimo è praticamente 9,50. E dipende dal 50%. Quindi è ottima, pulita, non ridondante, benissimo. Mi hai ricevuto bene, dai, in poche parole. Sì, no, bene, benissimo. Questo sto uscendo, il problema è che non riesco a uscire col 144, porca miseria. Quello mi sa che ho bruciato i finali, ma naturalmente tu non ce n'hai in 144, non possiamo fare manco nessuna prova. Vabbè, comunque l'importante è che in HF mi hai ricevuto bene. Mi dispiace che non c'hai LSB, ma nemmeno USB c'hai nell'apparecchio. Bravo, FM stretta, FM wide e DTSC. Sono in questi formati qua, dice, per questo. Comunque, se vuoi provare in AM o in FM sulla 144, si può provare. Attenzione, hai detto in 144? Sì, passa di in AM o in FM. E appunto, ma in 144 non so se riesco a uscire. Aspetta un attimo, sai, un attimo qua, che voglio attendere l'apparecchio e vediamo un po'. Va bene. Allora, aspetta un attimo, vediamo un po'. Scusa. Adesso non so più in questo se sono su AM o FM, porca miseria. Comunque sono sulla frequenza 145. 145 625, ti viene bene? Adesso glielo chiedo, va in diretta. 4, 5, com'è tra la frequenza? 145 625. 125.0. Non niente, è normale, 145 e 125 è giusto. Eccolo qua. Aspetta che mi accorgo il QRM, mi capire di antenne. Niente, non vado nemmeno a compensare. Dai, prova. Allora adesso possiamo anche, diciamo, lasciare un attimino, vediamo un po', aspetta che devo commutare anche qua. Allora, vediamo un po', qua devo commutare. Su questo. Ecco, mi sembra dovrebbe essere così. Sì. Allora, attenzione, adesso possiamo anche rimanere collegati su CB perché non c'è bisogno che esca dalla apparecchio CB, quindi facciamo una prova alle apparecchiature in 144, attenzione. 145.5. 145 625 ho messo, dimmi se mi stai copiando. Cazzo, non si muove niente, solo QRM. Aspetta un attimo, no, ti devo dare un'altra frequenza. Vai. siccome diretta 100, ti devo dare 145 550, sì, hai capito? 50, aspetta, enter, enter, ok, me la prendo. Per un attimo. Effetti speciali, qui America, effetti speciali. Allora attenzione, faccio l'altro apparecchio rimanendo sempre, ci sentiamo sempre su CB se non ricevi, adesso parlo su adesso sto parlando 145 550, sei messo giusto, Non mi arriva niente, aspetta che devo toccare qualcosa qua, rimani un po' lì, niente, non esiste lì. Hai commutato, sì? Sì, ma non esiste. No, stavi andando? Beh, adesso parlo, attenzione. Vai. Mi hai ricevuto? Negativo. Ma neanche zero, nulla. Addirittura ti ho scoraggiato la parecchia. Attenzione, hai messo la frequenza giusta? La sua, comunque, mi dice qualcosa, non è pescato. Ma sei sicuro che hai messo la frequenza 145-550? 145-550.0. 0 totale anche qua. Buonasera Marco. Buonasera Marco, ben arrivato. Sì, 0 totale. Forse se arriva da Roberto, limite. L'altra volta arrivava da Roberto. C'è qualcosa che non funziona, boh. Forse che ci concepo in vivo, ci arriva Roberto, sta finale bruciato, l'altro è quello male, magari non passa. E come Marco? Come? Si tira avanti, dai. Oggi non sono entrato in radio nemmeno ieri, sono un po', vabbè, già lo sai, no? Un po' spallato. Beh, ho dovuto organizzare una Parigi. Una Parigi con la curva verso sopra naturalmente, non verso sotto come la mia. Esatto, con le antenne laterali verso l'alto. Dai, che c'è la stoffa, capito? Si capisce che c'è la stoffa, c'è poco da fare, e dunque devi mettere in pratica un po' di sforzo, inizio, e poi quando inizia a gravare la bici si aggela. Allora Giovanni, non si riesce a metterla a piombo questa radio? Ci sei? Allora, adesso sto provando un altro apparecchio, sempre in 144, un portatilino, sempre la stessa frequenza, 145, 550, prova naturalmente, apparecchi. Ma sta guardando adesso? Copiato, no? No, negativo, che non sono a contatto, se mi fai un passo di lungo magari metto lo step nell'accordatore e riesco a... perché è un accordatore autocostruito anche di recente, a 12 parti non sono segnati, capito, ti devo ancora segnare. Vabbè, attenzione, allora parlo per un po', sulla, sempre sulla frequenza 145-550, hai capito? Prova apparecchiature, 145-550, ISG svegliata, prova apparecchi, 1-2. Buio totale qua. Niente, non ha ricevuto nulla. Ma che? Né con antenna esterna né con antenna interna, nulla. Beh, questo è quello che sta uscendo adesso, un apparecchietto portatile dal mare. Andiamo, ci sono dentro casa pure per giunta. Vabbè, va. Continuiamo sulla frequenza civile. La fine, non è per molto della bicicletta. Ti provo a chiedere, ma tu hai un wattmetro su quella frequenza per vedere se sta dando i watt quella radio, Giovanni, interrogativo? Diciamo che il wattometro se no vi di uno, infatti diciamo, se esco diciamo con quello apparecchio là, no, che sta a 100 watt addirittura, diciamo sul portatilino se mi faccio un giro intorno alla palettina, che esco con quell'apparecchio di prima, lo sento benissimo, però se, a quanto pare se vado oltre un certo limite non mi copia nessuno, quindi l'apparecchio probabilmente è guasto, ed è probabile siano partiti i finali. Boh, non so se tutti ne intendi, per fartelo vedere, boh. Io no, io sono una schiappa, forse Fabio se ne intende. Un pochino, però ci sono più dentro il problema di me. C'è qualcuno che si tratti come ne fa di qualcuno, che ne faccio ogni tanto, dai, che faccio di. Questo è un apparecchio molto complicato, quello che ti volevo far vedere. Infatti ho fatto vedere a Fabrizio e mi ha detto, io appena c'ho tempo probabile ce le guardi, ma è molto difficile mettere le mani su quell'apparecchio lì. E dammi una sigla. Non ho capito cosa? Il modello, dammi. Spera un attimo. Guarda, se non ci riesce neanche Fabrizio, allora non c'è speranza per quella radio. Ma sì che ci riesce, a Fabrizio non si possono riparare, non esistono, Marco, non esistono. Io me li faccio la sfida a volte. Vabbè, a parte di trovare componenti adatti, non dico a livello di finali, ma proprio processori, sai, quelle cose proprietarie, magari, che magari trovi 20 anni fa, adesso non manco a pagarle li trovi. La sua puoi riparare, poi alla fine ci riesci. Ho riparato un frigo che è impossibile da riparare, tu mi dirai cosa c'è per il frigo. Quando digitale, quando costa 2000 euro, quando non lo fabbricano più, quando va con tre modi, equivalente, quando c'è Dalfini che si regolano l'evento dietro e si cambiano i modi in maniera automatica, e quando il processore non esiste, capito? Il processore non esiste, però si riparà. Allora ti dico la marca, attenzione. Tanto. Allora è Iaesu FT7800 Dual Band FM Transceiver. Capo, mi informo, insomma, esce basso, così è. No, esce bassissimo, qua vicino riescono a ricevere, diciamo, se esco con lo Iaesu, no? Riesco a ricevere col portatilino, però siamo allontanati oltre un certo limite delle dirime, sono messo in contatto con Roberto è vicino a me, ma cioè, non copia nulla, non hai copiato nemmeno tu, quindi c'è qualcosa purtroppo che è partita da, diciamo, e adesso con calma, se è riparabile è buono, se no me ne frega, a spendere altri soldi non me la sento, sinceramente. Ascoltami Bracco, ma in eccezione com'è? Perfetto, non dico buono, dico perfetto, come sempre. Ma l'eccezione dovrebbe funzionare, dovrebbe, ma è che ti metti d'accordo con qualche radioamatore a provarlo purtroppo, con qualche radioamatore che diciamo esca a per dire sulla frequenza 145-550, ma di questi ne senti raramente all'infuori di Sparviero e mezza sera non c'è nemmeno, no, per sapere se riuscivo a sentire, attenzione però c'è un problema, io non c'ho antenna, c'è un antennino sulla finestra, il problema è anche lì purtroppo, c'è un antennino sulla finestra, non so se sia manco accordato, è 144 l'antenna, però non so se sia accordato, diciamo, per quella frequenza. Ho capito. Cosa dirti? Il discorso era tu. Hai idea di quando l'hai rotto questo apparecchio? Cioè di cosa hai fatto per romperlo? Ma forse sono uscito, diciamo, facendo le prove, ho fatto la coglionata di uscire con l'antenna a manto, guarda. Perché sì, Roberto mi copiava benissimo l'altro giorno, boh. Il primo giorno che era parecchio tempo, che era fermo, e dice Roberto mi copiava a bomba, e poi non ha più copiato, evidentemente si è bruciata qualcosa. Allora hai fatto l'anno così, mi sa che hai fatto l'anno così, brutto. L'antenna già lo sai, poi Iaesu già è preciso, e dunque è delicato, un po' così differente, capito? Ne arrivarsi, non sono più gli Iaesu che facevano 30 anni fa, 40 anni fa, no? No, questo diciamo è invece la realtà, comunque mi sembra del 1998, roba del genere, piccolo diciamo, è quanto un apparecchio, né più né meno, anche più piccolo di un apparecchio QB normale, là, di quei baracchini. E ho capito il genere. Niente, mi informo, guardo un attimino lo schema e cerco di capire cosa può essere successo. Se trovo lo schema, posso già ipotizzare, anche senza guardare l'apparecchio. Normalmente ne parliamo magari un altro momento, dai, tanto può anche prendere a vederla, vedere che cavolo siamo. Allora, forse potrebbe essere anche una fesseria, nulla di strano che ci abbia delle protezioni, o potrebbe essere partito un diodo per esempio, e qualche altra roba, no? Non penso che si devo guardare così presto, perché soltanto perché sono uscito con un'antenna sbagliata, boh. Ma poi non è che ho fatto collegamenti, diciamo, a lungo termine, no. Premuto la portante per 5-6 secondi, 10 secondi, roba del genere, non oltre. Bastano anche 2 secondi secondo le condizioni dell'antenna, magari un PL messo male o l'antenna chiusa non c'entrava niente con la sua frequenza. E lui c'ha un ritorno, poi magari l'impedenza non è corretta, l'antenna è fuori frequenza, e PDP e PD lo ha, basta un attimo, bastano 2 secondi, fa la boom, via, finali. Finali è quello che si portano appresso, magari, capito? La speranza è quella che lui continua a ricevere bene, perciò gli MS siano a posto, gli S a posto, gli là, è uno sguardo veloce, si trovano dei componenti per avere il circuito continua a girare bene, per i componenti là, si fanno delle misurazioni, per linea di massima, così di transceiver, poi a cambiare il finale, in faccia di vista, e magari va, senza chissà quale lavoro, capito? Lo so, e a vedere se sono i finali. Ti sto dicendo, potrebbe essere una fesseria, ma potrebbe essere un danno grosso pure, di componenti magari che non trovi più, un esempio, ecco. Tanta, figurati. Adesso sto riparando un ricevitore portatile a valigetta di, questo sarà veramente 77, 65 anche, che monta i transistor che mi hanno fatto uscire di testa su una radio portatile. A sfida, a sfida, perché non si vale manco 5 minuti di lavoro. Però stasera ho avuto grandi riscontri, devo capire un po' come toccare la sensibilità, ma ho avuto grandi riscontri, sono iniziato sui 9, sui 10. Attenzione che diciamo, uno è riparare un apparecchio 144 sofisticato come questo, e l'altro diciamo è riparare un baracchino, penso sia molto più facile. Guarda, tutti si spaventano dei sistemi SMD. Io non lo so, sarà che ho seguito un amico da Samsung, specie riparando schede di televisori. Abbiamo fatto cose molto delicate, con molta attenzione, tipo che so riparare il beacon, riparare alcune main, su alcune partite delicate, io non mi trovo problemi. Dicevo che la vita non è che posso andare avanti e vedere. Non ti dico che te lo riparo, però insomma, le possiamo dare uno sguardo, che vediamo, uno sguardo si dà, come si dice, vabbè, là. C'è cosa più complicata di cambiare il transistor, si parla così. E va bene, insomma, uno sguardo ce lo puoi dare, naturalmente. Sì. Probabilmente ci voglia la lente qua per vedere i componenti, comunque non si crede che sia facile. Comunque, ci proviamo, se va, se no pazienza. Comunque fai girare, perché c'era una. Chi c'era in frequenza poco fa? Non ho capito. C'era Marco, caro Marco. Che anche lui non ti ha ascoltato. Marco, come stai? Presente, eia. Sì, 7008, l'ho visto, poi l'avevano sostituito col 7009 che fino a un anno fa era in vendita, forse qualcuno ancora ce l'ha in Italia, non è roba nemmeno troppo vecchia, credo che si trovino i ricambi di quell'apparato. E quanto costeranno i finali di una radio del genere? Non so nemmeno quanto possono costare, non so perché te lo dico, Fabio, perché certe volte, guarda, 60 euro da tipo da come si chiama, Banggood, un mini bipanda veicolare che non è full duplex ovviamente, cioè puoi usare una banda per volta e non puoi ascoltare in due bande, 60 euro, c'ha tutto, subtoni analogici, digitali, tutto c'ha, scostamenti, tutto quello che serve. Vabbè, allora, secondo i finieri mi sono capottato il, diciamo, tornato 34S, gli ho fatto tutta la pulizia, gli ho cambiato lo stagno in molti punti, gli ho ripiazzato le saldature, poi c'erano delle modifiche, le ho tolte, ho messo lo speaker nuovo, l'ho retroilluminato, gli ho cambiato il display, gli ho pulito tutti i potenziometri, insomma, gli ho controllato un paio di punti di frequenza. Gli ho tirato due cosettine così veloci veloci, cioè questo fa parecchio, che puoi trovare a 100 euro, però mettere a posto il mio baracchino mitico non ha prezzo. Se tu hai attenzione a un apparecchio che io di mano d'opera praticamente non ti prendo niente, spendiamo 30, magari 40 euro e c'hai di nuovo il tuo apparecchio, quello a cui essere affezionato, no, ne vale la pena. Per me è una sfida, per te hai la cosa alla quale sei affezionato, quello che volevi e se ne esci così, capito? Sì, vabbè, che quello è vero, affezionato, ma fino a un certo punto, alla fine se ci devi spendere una cifra, non credo che sia il suo caso, cioè spendere una cifra troppo alta, ma va bene, sempre affezionato, ma con qualche limite, dai. Beh, certo, cosa ti metti a spendere 100 euro per un baracchino che trovi su eBay a 59 euro usato, che magari questo ce l'ha per una cantina da 20 anni, l'ha trovato, e già sto facendo pulizia, ci buttiamo tutto, poi apri eBay, vede qualcuno lo sta vendendo, lui gli ha dato corrente, non si ricorda nemmeno come funziona, non c'è più l'antenna, vede che si accende e ti dice qua. Perché sì, capito, ma non garantisco perché non l'ho provato, non testato, così che se qua, se lo metti di 50 euro, forse magari lo prendi di cambio finale da quello, non ce l'ho. Va bene, mamma mia. Signori, dai, vi saluto e cerco di guardare qualcosa in TV, dai. Che sono abbastanza, non da poganami, come si suol dire, dai. Giovanni, riprendi, dai, vi saluto io. Sentiamo le migliori occasioni. KK ma che ben che io adesso mi faccio per RTV, non è 8. Eventualmente ci sentiamo domani sera. Riprendi Fabio? K, siamo in tre, eravamo in due, io volevo chiedere un controllo al QRM, se mi sente, attento QRM, se ci sei in questo canale, per un controllo cambio. Ma attenzione, perché ti ho ricevuto molto meglio di quando, di poco fa, adesso sta andando benissimo come radio, come segnale. Un segnale 9 più 20 quasi, mi sembra almeno. Lo so, ma la radio dipende dalla batteria. Se la batteria perde un po' di voltaggio, il microfono guadagna un po' di meno e perciò non sente l'antenna, capito? Devo aspettare che scarichi un po' la batteria per riuscire a sentire la radio. Ti immagini? Sto facendo benissimo, ma non so all'inizio perché scrivi male, come radio inizialmente era proprio a terra, potevo dare al massimo 3 via. Addirittura, niente, devo spostare l'antenna, mi sposto l'antenna, posso non avere tutti i problemi di destini di radio strappa con questo microfono, naturalmente ci sono affezionato a questo, io stavo cercando anche uno uguale, ma non si trova, ormai è roba vecchia. Roba vecchia, come dice, gallina vecchia fa buon brodo, perché io, diciamo, gli apparecchi miei sono quasi tutti vecchiotti, intendiamoci, anche l'apparecchio HS che è un Kenwood, un attimino ti dico subito, perché non è che ci abbia la vista tanto buona. Allora, Kenwood è Kenwood su un TS 50 e va benissimo anche se è vecchiotto, anche questo è del 95, quel periodo là, è come si chiama, è come il 144, la stessa roba. Poi baracchino è quello che mi ha prestato, diciamo, Roberto, ma c'era anche un altro che esce bene lo stesso, era un po' arrugginito, ma penso che sta bene comunque. comunque. No, io ne ho avuto parecchie baracchini in 100, in, come si chiama, le frequenze CB, ho avuto la Fayette valvolare addirittura negli anni 70, un'altra Fayette diciamo a transistor, era bello, un bestione che aveva avuto incorporato la, anche l'alimentatore. Poi ho avuto il patch 123, mi sembra, insomma, una roba del genere, e ne ho avuto parecchie. E poi ho fatto gli scambi, poi ho avuto anche in 144 un apparecchio grande da tavolo, diciamo, che l'ho dato a come si chiama, per uno scambio a Walter, diciamo, in S0 o Sierra W. Sommerkamp a valvole, lo stesso l'ho dato a Walter, e ne ho avuto gli apparecchi, devo essere sincero. E poi non parliamo di apparecchi, come io ero a Trieste, ho avuto gli apparecchi, diciamo, delle navi, apparecchi ricevitori più che altro. Avevano demolito una nave, la Saturnia e la Vulcania, erano delle navi che andavano da Trieste a New York, e poi le hanno demolite a Trieste stesso, la Sidemar si chiama, c'era un po' di quel materiale in quel posto, diciamo. E uno di quelli aveva portato a sasso di quegli apparecchi, e riceveva una cannonata, c'aveva quelle valvole americane schermate. L'ho dato per una fesseria, poi mi sono pentito perché il nostro manco dove è andato a finire. Anche io ho avuto un po' gli apparecchi nel mio momento d'oro, no? Ho avuto apparecchi che adesso vedo che la gente li sta cercando, tipo Saturn Echo, tipo qualche altro, tipo il 2009, il 2006, questi apparecchi qua, se la ricacciano. Però poi alla fine è rimasto questo qua, mi ero rimasto a questo, era facile, semplice, perché avere cose anche complicate, stare lì a toccare, poi alla fine a me mi interessava uscire con una radio un po' forte e avere un apparecchio rapido da usare, per stare lì a girare frequenze, a fare cose meno futili, poi alla fine, quindi come c'era in questo periodo. Siamo solo su 10, ma qua fuori i canali tocco, figurati. Lo so, purtroppo c'è cosa c'è. Io vorrei che quell'apparecchio magari l'ho bruciato, perché l'ho bruciato? L'ho bruciato perché ero anni che non entravo in frequenza, non mi ricordavo più nulla, diciamo, e come sono entrato, mi ha invogliato Roberto a entrare in frequenza. Quando magari non so una volta mi ero dimenticato di mettere le mani e tutte queste belle robe qua, e allora rischi di rovinare gli apparecchi. È naturale che è sempre meglio avere apparecchi semplici, ma è sapere dove metti le mani, a volte te le dimentichi. Meno male che sull'HF non sul Kenwood, diciamo, mi sono ricordato come si accordava con l'MT3000, no, per fortuna, se non sono uscito a casaccio, se no avrei bruciato pure quello. Mentre, diciamo, gli AESO 144 non c'è accordatore, non c'è nulla, e sono uscito così un po' alla cieca, no, a caso, e quindi si fanno i danni purtroppo, così. Dove è andata, dai, secondo me non ha molto danno, secondo me la sua finale parte, perché se ti sente da vicino, ti senti tu da apparecchio da parecchio, in qualche maniera sta uscendo, magari se riesce a uscire con 200 milliwatt, capito, con 500 milliwatt, cioè con mezzo watt, tanto per il finale, e se no appunto il finale, la cosa da fare sarebbe provare, controllare, ci sono magari incontro intorno, se tipo il liscio si cambia il finale, si prova e si vede come va. Ma adesso tu hai la possibilità di usare un'antenna per provarlo, per non bruciarlo? Non so, prima c'avevo l'antenna sul tetto, per quello che mi ha fregato. Adesso c'è un'antennina sulla finestra, ma forse non manca accordato, no? E il problema è un altro, comunque, bisogna vedere se funziona in ricezione pure, perché diciamo, se per caso ammettiamo che trasmette, io ho provato, ho provato in trasmissione di ricezione, sempre con questo portatilino che ho, un portatilino palmare, e sono uscito, mi sono allontanato di circa, che si può dire, quasi 100 metri, no, dall'apparecchio che ho, come si chiama, e sul palmare, diciamo, in ricezione, 100 metri di distanza, riceveva. Ed è probabile, appunto, c'è da sperare che non abbia, che non sia già stata ricezione. Io mi auguro di no, perché se no non ne vale veramente la pena. Ma guarda, per quello che hai fatto, cioè che sei uscito con praticamente senza antenna, da tutto il scenario classico, dovresti ricevere, sanno che non ci sia chissà che cosa, insomma, mi sembra che tu non sei rimasto lì affaticato. No, attenzione, ma è una cosa strana, vero? L'ho dato a, come si chiama, Sarviero, ma adesso dice non funziona né ricezione né trasmissione. Oh, io penso che ricezione funzioni, con chi l'abbia trovato non lo so, dove, porca miseria, perché se per caso non funziona nemmeno ricezione, almeno col mio portatilino palmare in ricezione funziona, anche se mi lontano 100 metri circa, no? Poi diciamo, per quanto riguarda le distanze, per dire, dei ponti e roba del genere in ricezione, non lo so, perché finora ogni tanto accendo per vedere se qualcuno che modula in 144-145, ma anche lì è su, ma ho l'impressione che non c'è più nessuno, eppure ci sono i radioamatori, diciamo, ma questi sono mandroni, non escono quasi nulla. Ah, così è. Eravamo tutti appassionati quel periodo, adesso abbiamo dovuto mandare tutto così. Sì, mannaggia, non so perché, diciamo che la radioamatori è stata lì, ce ne sono, non è che non ce ne sono, almeno 5-6 penso che ci siano. Io non ascolto quelle frequenze, non ci vado, facciamo il faccio, capito? Non sono pratico. Guarda qui, no, sì, sulla 27 sì, però sulle altre no, d'altronde non c'è patentino, non c'è niente, è solo la licenza e basta. Allora, i radioamatori che ci sono, che sono certo che ci sono ancora, sono allora Walter, quello che c'è una stazione che c'è un bunker dove ci sono più di 50 apparecchiature di tutte le maniere, mi sembra che sia addirittura con 4 o 5 kilowatt addirittura. Poi ISB, ISG, DSB, che sarebbe Claudio, poi c'ho altri nomi qua, non so se ci sono ancora, se sono morti, conosciuti negli anni 70-80, ISG, America, Napoli, diciamo Y, poi c'è ISG, PCO di Fioretto, c'era almeno una volta, adesso non so con gli altri. Almeno questi erano quelli che io avevo avuto dei contatti negli anni 95-98, roba del genere. Certo, a Sassari c'è, tra l'altro, Antonio Angelo, un vecchio radioamatore che avrà 85-86 anni, comunque grazie a Dio è ancora vivo. Poi c'è Massimiliano, Massi S0, Genova, Udine, Papa. Poi c'è un altro S0, YPW, Paolo, questo è di Mores. E non so manco se questi si trovano ancora, perché serve una certa età. Ma i giovani non hanno passione per la radio, non si sa, non ce l'hanno. Oggi ho visto, dopo 25 anni, il figlio di Mario Manser, ma pensate, io lo ricordavo bambino, figurati, e l'ho visto di persona, proprio ci siamo praticamente presentati, figurati. Sono Mario Manser non lo sento da secoli, sono almeno 20 anni, buoni, so che è vivo, so che ce ne sono tanti altri vivi, tipo Delfino, eccetera, però c'è chi non ne ha voglia, chi della radio proprio non ne vuole sapere più, no, non me ne vento, no, questa cosa si immagina. A dire la verità ce n'erano due da vicino, uno se l'ho detto l'altra volta, se non mi sbaglio, era Mario Planeta che aveva diciamo una verticale, una direttiva enorme, sui 20 metri mi sembra che fosse la direttiva. E poi c'è Pietro Farina che ha un apparecchio, una linea dry che non l'ha mai, da quando ha cambiato casa, che è passato in questa cooperativa dove sono io, negli anni 70, non ha messo più né antenne né nulla, ha gli apparecchi in garage. Ho detto, ah, perché non te li vendi? E dice, troppo spassionato, non li vendo. E quello è un vecchio radioamatore, anche lui, cioè Pietro Farina, che abita qua di fronte a me. Insomma, non so come prenderlo a San Carlo, ogni volta fischia. Adesso ti prendo così, non ti piace. Ti prendo così, ti prendo così, niente, non so chi. Povero F600, non li sta facendo passare. Eh sì, no, non hanno voglia, boh, non lo so, sarà che il mondo è cambiato, boh, il telefonino si comunica in un attimo, saranno queste cose, però la passione per la radio, se ce l'avevi davvero, ti è rimasta, a me è rimasta. Io, come ho saputo che c'era qualcuno in 27, subito con questo apparecchio l'ho trasportato, ho visto cosa c'aveva, cosa non c'aveva, l'ho fatto ripartire, così quattro chiacchiere, la mattina ascolto, per esempio, quando il ricevitore ha la QTH, la mattina a posto di ascoltare la Radio Montecarlo, adesso mi ascolta il canale 10, figurati tu. Non so, la passione della radio a me mi torna ogni tanto. Intanto smetto, poi mi torna, non avete a capire il perché, Dio buono, eh. Però in questo periodo che io sto entrando, diciamo, sulla frequenza TB, ho mollato un po' il computer e tutto il resto, e purtroppo fai una cosa o fai l'altra, non c'è nulla da fare. E magari, diciamo, adesso lo lascio aperto, lo lascio acceso la parete, quindi quando entra qualcuno ci facciamo una chiacchierata, che sempre, fa sempre piacere, là. Non è come parlare al telefono naturalmente, né come parlare su WhatsApp e tutto il resto. Diciamo, la passione, la radio è sempre la radio, naturalmente, anche se oggi ci sono delle cose che hanno sorpassato queste diciamo, cose incredibili che gli anni 90, gli anni 70 era anche impossibile immaginare a cosa si arrivava. Vabbè, Fabio, io allora faccio QRP, ascolto, magari domani sera, se rientra Sassari, già ti sentiamo la 27, ti rilancio il micro quella finale. Capo, dai, allora sono tu, diretti con Capo, sono qua e tutti gli ascoltoni, saluto il circolare, Bracco, buon trabacco per domani, che si deve sforzare di fare un paio di chilometri. Buonanotte, buon lavoro e buon tutto. Ci sentiamo domani, dai. Vabbè, buonanotte, ciao ciao.